sempre lo stesso, non cambierò, capterò i drammi, diversi tagli, troppo vasti, masticherò l'angoscia in pasti, con la forza di importi in forti contrasti. Tasti, tasti dolenti in faccia a maschera, sorridente come Crusty, così non sembrerò quello che lotta contro gli altri. Particolari tattiche in tanti momenti, difesi in tanti frangenti, ripresi eventi incollati come ritratti. Tracci il percorso di estesi destini, ma prendi la vita così com'è, perché con la vita non ci ritratti. Contratti già fatti, firmati, non li cambi. Se nasci ricco passi, se nasci da un contadino zappi. Sappilo tutto nella mente, tutti i programmi, supervisioni, i vostri tratti somatici è la mia arma, vi do la calma. Se l'orizzonte del mio occhio avverte un cambiamento di sguardi, guardie giurate fedeli che avvertono il calore con convinzione di grandi attenzioni, perché i miei, i vostri passi battono in sincronia, sento perfino il vostro respiro che aspiro per ricreare la cortina che tende a rilassarvi. Ho il potere di muovere le nostre menti sulla stessa linea, e se ci sarà un'anomalia, sarà avvenuta una collisione su commissione di falsi santi. Tu li guardi, vorresti eliminarli, porteresti, conteresti di umanità e conteresti fino a 10 sperando di cancellarli. Non potresti, ma ci penseresti su.